Letture di Radio 24. La figlia di una vittima della mafia ottiene, dopo un lungo percorso burocratico, la pensione anticipata che le spetta per legge. Ma scopre che il provvedimento si applica solo alle vittime di stragi e non a chi viene ucciso normalmente dalla criminalità organizzata. La stupidità della burocrazia può essere feroce e insultante. Lo dimostra l'incredibile storia di Milly Giaccone, figlia del professor Paolo Giaccone, medico legale e perito del tribunale, che l'11 agosto 1982, tra i viali del Policlinico di Palermo, fu assassinato perché si era rifiutato di addomesticare la perizia su un'impronta digitale che incastrava i killer che nel 1981 avevano assassinato 4 persone a Bagheria. Un uomo morto per lo Stato, per difendere la dignità dello Stato. Riassunto. La signora, 52 anni, dirigente medico all'ospedale Villa Sofia, presenta nel maggio 2010 all'INPDAP la richiesta di andare in pensione anticipata riscattando 9 anni e approfittando dello scivolo che la legge prevede per i familiari delle vittime di mafia. Per mesi e mesi l'Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti Pubblici esamina l'incartamento e infine, nel gennaio 2011, lo accoglie. Via libera dal 1 aprile. Ma è un pesce d'aprile indecente. Un mese e mezzo dopo, l'istituto annulla tutto e con ottusa crudeltà burocratica chiede alla signora di restituire liquidazione e pensione. Spiega una nota ufficiale che il provvedimento si deve a una complessa concatenazione di norme. L'articolo 3 della legge 206 del 2004 prevede, in favore dei familiari superstiti di vittime di atti di terrorismo e delle stragi di matrice terroristica, anche quelle di stampo mafioso, la concessione di alcuni benefici che riconoscono, tra le altre, l'applicazione di misure quali l'aumento figurativo di 10 anni dei versamenti contributivi. Tuttavia, l'aumento figurativo di 10 anni di versamenti contributivi non si estende ai familiari delle vittime di azioni della criminalità organizzata, siano esse o non di stampo mafioso. Traduzione. Chi è stato solo assassinato da un comando mafioso, ma non è stato vittima di una strage mafiosa, non ha diritto a niente. Risultato? Milly Giaccone è rimasta senza lavoro, anche se Villa Sofia si è offerta di riassumerla, e senza pensione. Fin qui il riassunto. Ma la cosa, se possibile ancora più oscena, è che alcune settimane di polemiche non sono bastate a risolvere il vergognoso pasticcio, che può avere una sola soluzione, una modifica della legge. Una modifica vera, non una leggina ad hoc per chiudere la pratica. Ma si sa, nei palazzi del potere c'è così poco tempo per le cose serie. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Gian Antonio Stella, Accanimento burocratico, dal Magazine 7 del 7 luglio. Dopo i disordini avvenuti durante la recente manifestazione Notav, Mahdi Allam lancia una provocazione: mettere fuori legge quelli che a tutti gli effetti si possono considerare i nuovi terroristi. Lancio un appello all'Unità Nazionale per mettere fuori legge i nuovi terroristi che alla stregua della criminalità organizzata attaccano per uccidere le forze dell'ordine, distruggono il patrimonio pubblico, mirano a sovvertire l'ordinamento dello Stato, disconoscendo la legittimità delle scelte del Parlamento e del Governo, eletti democraticamente. Che si chiamino militanti Notav, Black Bloc, centri sociali o anti-nationalist Front Notav, dal momento che le loro azioni sono violente ed eversive, non possiamo continuare a considerarli come dei singoli esagitati che eccedono nella loro manifestazione ostile alle decisioni assunte dai legittimi rappresentanti dello Stato, che è anch'essa legittima fin tanto che resta di natura pacifica e rispettosa delle leggi. Se dopo l'attacco violento di circa 1500 militanti Notav lo scorso 3 luglio, culminato nel ferimento di 200 poliziotti, il capo dello Stato Napolitano ha dichiarato senza mezzi termini che si è trattato di violenza eversiva, perpetrata da gruppi addestrati a pratiche di violenza eversiva, da squadre militarizzate per condurre inaudite azioni aggressive contro i reparti di polizia chiamati a far rispettare la legge, qualificati come professionisti della violenza. Sarebbe stato doveroso un pronunciamento da parte della magistratura, dal momento che Napolitano presiede il Consiglio Superiore della Magistratura. Limitarsi ad arrestare 4 persone significa che la nostra magistratura continua a negare la connotazione di organicità di questa nuova forma di criminalità organizzata denunciata da Napolitano. Ancora più esplicito è stato il ministro dell'Interno Maroni, principale responsabile dell'ordine e della sicurezza pubblica, che ha qualificato l'evento come violenza eversiva di stampo terroristico. A suo avviso è lecito ipotizzare il reato di tentato omicidio e non reati minori, perché lanciare bottiglie incendiarie di ammoniaca significa attentare alla vita dei poliziotti. Questo non può essere considerato un pacifico dimostrante, ma è un terrorista. È una forma organizzata di violenza. Dal momento che governo e opposizione hanno fermamente condannato questa violenza organizzata, che cosa attendono a dar seguito alle dichiarazioni ufficiali affinché si traducano in una legge che esplicitamente indichi che l'attività di questi gruppi violenti ed eversivi è messa al bando? So bene che le leggi attuali, promulgate negli anni dell'eversione delle Brigate Rosse e anche recentemente per fronteggiare il terrorismo islamico globalizzato, potrebbero essere considerate sufficienti per contrastare anche questo nuovo terrorismo. Ma ciò che ancora manca è la consapevolezza e la formalizzazione che si tratta appunto di un nuovo terrorismo, perpetrato da gruppi armati dediti alla criminalità organizzata, finalizzata al sovvertimento delle nostre istituzioni democraticamente elette. Sarò ancora più esplicito. C'è a sinistra un orientamento a considerare questo fenomeno come espressione di un gruppo di esagitati che reagiscono in modo eccessivo per denunciare una causa di per sé giusta. È insomma lo stesso atteggiamento che si ebbe negli anni 70, quando inizialmente all'interno del Partito Comunista si definirono i brigatisti rossi come compagni che sbagliano. Solo dopo che i brigatisti cominciarono a uccidere i militanti comunisti, il PCI fu costretto a uscire dal suo torpore ideologico. Il nostro codice penale ha già le leggi che potrebbero essere assunte per fronteggiare questo nuovo terrorismo. Esso sanziona la costituzione delle associazioni sovversive, delle associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale, o di eversione dell'ordinamento democratico, l'assistenza agli associati, l'addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale, le condotte con finalità di terrorismo, l'attentato per finalità terroristiche o di eversione, l'atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi, l'istigazione a commettere uno dei delitti contro la personalità dello Stato, la banda armata, formazione e partecipazione, assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata. Ebbene, se con queste leggi ci troviamo impotenti a fronteggiare questi nuovi terroristi, ciò si deve semplicemente al fatto che per i nostri legislatori e per i nostri magistrati non sono considerati terroristi, bensì giovincelli esaltati o compagni che sbagliano. Forse dovremmo attendere il morto prima di essere costretti ad aprire gli occhi. Possibile che in Italia la classe politica e la magistratura agiscano soltanto sull'onda emotiva delle tragedie e non siano in grado di prevenirle? Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Magdi Cristiano Allam, Notav e Black Bloc? Serve una legge per metterli fuori legge, dal Giornale dell'11 luglio. Mentre nei vari paesi europei le donne che fanno il mestiere di arbitro sono ancora una piccolissima minoranza, c'è un piccolo paese africano dove le donne, almeno in questo campo, hanno raggiunto la parità. Non è facile sentirsi chiamare puttana o affrontare tifosi ubriachi che minacciano di pestarti a fine partita. Serve il fegato per certe cose. Delle 45 persone con cui ho fatto il corso 17 anni fa, sono la sola sopravvissuta. Occhiali da sole, t-shirt e jeans, Ella Banda non nasconde la sua soddisfazione, ritornando con la mente agli inizi della sua carriera. Internazionale dal 2006 al 2010, è l'arbitra più famosa del Malawi, dove da anni dirige le partite della Super League maschile, la massima serie calcistica locale. Sulla quarantina, single e con un lavoro da segretaria, è stata una delle apripista del movimento arbitrale femminile in questo piccolo paese dell'Africa orientale, divenuto in pochi anni un'eccezione mondiale in termini di parità dei sessi tra le giacchette nere. Oggi, con 9 arbitre, di cui 4 internazionali, e 27 assistenti donne nelle due maggiori serie nazionali, i numeri del Malawi fanno impallidire quelli di Italia, Inghilterra, Francia e Spagna, dove in tutti i campi professionistici sono presenti appena 2 arbitre e 15 guardalinee. In Italia c'è un ufficiale donna ogni 39 maschi, in Malawi la media è di 1 ogni 20. Non dimenticherò mai le facce dei colleghi quando venivano designati con me o le risatine dei giocatori durante il riconoscimento, ricorda Ella Banda. Era il 1999 quando, più per caso che per bravura, l'allora guardalinee Berta Kawanga diventava la prima donna in Super League. Complice l'assenza di un campionato di calcio femminile nel paese, le aspiranti arbitre venivano infatti mandate allo sbaraglio nelle leghe maschili, suscitando le ire di tifosi e addetti ai lavori che le reputavano incompetenti. Col tempo però sono riuscite a vincere la diffidenza dei vertici della federazione. Molte sono più intelligenti e capaci dei colleghi, ma reggono meno lo stress. Nei big match tentiamo di preservarle, si giustifica Maxwell Mtonga, responsabile del settore arbitri della federazione. Le paure di Mtonga sono in parte giustificate. Recentemente una guardalinee che ha annullato un gol in fuorigioco in una partita decisiva è stata aggredita da tifosi e giocatori ed è finita in ospedale. Discriminazioni e sessismo sono le ragioni per le quali anche Berta Kawanga ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo. Ho smesso dopo aver avuto il mio primo figlio, ma la ragione principale è che non volevo creare problemi a mio marito, racconta, mostrando un ritaglio di giornale dell'epoca in cui un allenatore inviperito le urla in faccia tutta la sua rabbia per aver concesso troppi minuti di recupero. Il Malawi è una società molto maschilista, dove mostrare le cosce per le donne è un tabù. I tifosi non te lo perdonano ed ero stanca di vedere mio marito preso in giro ogni volta che veniva a vedermi. Oggi Berta si accontenta di vedere il calcio in TV, ma le sensazioni che ti dà un campo di calcio le mancano. Nonostante i problemi, infatti, arbitrare è una gran soddisfazione per le ufficiali del Malawi, orgogliose di aver introdotto un tocco di sensibilità femminile nel calcio. Se i colleghi maschi dirigono a suon di cartellini,